www.radio3pod.rai.it. It is later than you think. Fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce. Mentre nella fabbrica di polli un'altra settimana è cominciata come se nulla fosse, Kappa e Drago contemplano il cielo. Il cielo, Drago, il cielo. C'è il torcicollo. Ma no, noi proveniamo da lì e lì torneremo. No, dai, quando diventi così mistico non ti sopporto più, Kappa, dai. E poi questo non è un cielo, lo vedi? Se permetti è un soffitto, sarà alto, ma è un soffitto, no? Un soffitto, il cielo, che differenza fa? Quel che conta è guardare verso l'alto. È il gesto che è trascendente in sé, Drago. Guardare verso l'alto. Quando sei qui con me. Ma chi io? Guarda che... Era, la canzone era intesa in un modo diverso, dai, basta. Questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Ma guarda che sono i pali delle impalcature, ci sono i muratori, stanno facendo un casino della Madonna da due settimane. Ma sì, Drago, perché il cielo, gli alberi, è tutto perduto. Adesso non esagerare, cioè, intanto ti viene lo spleen, tutto perduto. Non abbiamo più contatti col mondo esterno. Bravo! Hai appena sforato il fido di 600.000 euro che ti avevamo concesso. Sei pronto a finire in prigione? Bravo! Bravo, hai visto, Kappa? Il mondo esterno non è poi così lontano. La banca, ad esempio, con i suoi SMS, ti aiuta a non perdere del tutto la speranza di uscire da questa fabbrica per tornare al mondo vero, no? Sì, per finire in prigione, vorrei dire. Da una prigione all'altra. Beh, hai sforato il fido, succede così. Comunque, meglio prigionieri nel mondo libero o liberi qui nel mondo prigioniero? Ostre ad una velta sound, oggi Drago è proprio un filosofo, disse Massimo Cacciari, togliendosi dalla barba un lungo capello femminile sbiondato. Ah, la vie en prison, elle a du bien, elle a du bon. Il faut chier devant tous, mais tu as du temps pour flâner. Ah, la vie en prison. Ah, la vie en prison. À Lausanne, comme à Dijon, les droits humains fondamentaux sont respectés en prison. Sauf une exception. Et l'exception est la règle. Si ton copain est un nègre, ça va sans dire. La vie en prison. Ah, la vie en prison. Ah, la vie en prison. Ah, la vie en prison. La vie en prison. Et l'exception est la règle. Si ton compère est un nègre, ça va sans dire. La vie en prison. La fabbrica di polli. Nel 1989 siamo stati chiamati per una riunione internazionale alle Bermuda. Io ho paura di volare e ho fatto un viaggio assurdo, ho perso quasi anche la coincidenza. Quando siamo arrivati e ci siamo ritrovati tutti nella sala d'attesa dell'albergo, il presidente si è manifestato e ci ha comunicato che la sera stessa saremmo stati tutti a cena al ristorante in pantaloni corti. Alle 19.30 si è scatenato l'inferno nei corridoi dell'albergo. Tutti giravano da una camera all'altra per vedere se i colleghi si sarebbero vestiti effettivamente con i pantaloni corti. Alcuni hanno anche bluffato, hanno detto che si sarebbero messi i pantaloni corti e invece si sono messi quelli lunghi. Io ho detto a tutti che mi sarei messo i pantaloni lunghi ed effettivamente mi sono messo i pantaloni lunghi. Però purtroppo poi ci siamo ritrovati solo in due con i pantaloni lunghi. Uno era un pezzo grosso per cui non lo hanno neanche cagato. A me mi sono venuti sotto al tavolo, mi hanno costretto ad alzarmi, mi hanno fatto andare nel centro della sala e hanno detto che dovevo far vedere le ginocchia. Una funzionaria inglese di 77 anni ha tentato di farmi tirare sui pantaloni dalla caviglia, agganciandomi la sinistra. Io, paonazzo per la vergogna, ho deciso di fare finta di tirarmi giù i pantaloni dalla cintura. Nessuno mi ha fermato e ho dovuto farlo davanti a tutti. Tarek è un giovane pollo volenteroso, ma sfavorito da madre natura. Povero Tarek, esso possiede al contempo l'innocenza dell'infante e il triste presentimento di un mondo che si approfitterà di lui. Il volenteroso Tarek non si perde mai d'animo. Nemmeno quando riceve dal fato i colpi più duri. Aia! Aia! Aia! Tarek è sempre pronto a ricominciare e ad affrontare una nuova avventura. La fabbrica di polli. Il richiamo della pasta asciutta. La fabbrica di polli. Vieni, dritto là. Vedi? Caldo. Certo, questa è la fonte del grande calore che c'è in tutta la fabbrica di polli. Viene tutto da qui, attraverso un enorme sistema di tubazioni nascoste, molto ingegnoso. Ma non si respira, però. Si dice anche che il fuoco che alimenta questa caldaia sia lo stesso fuoco che brucia al centro della Terra. Ma chi ti dice certe strozzate, Kappa? No, nessuno, però ci stava bene, no? Al centro della Terra c'è l'inferno dantesco, sì. Il collegamento non è completamente campato in aria. Piuttosto, se mi dici che questa è una caldaia, ha una forma un po' strana, no? Sì, è un po' irregolare. Tutta piena di piegoline. E senti come scotta. Aia! Serve a mantenere costante la temperatura di 38 gradi in tutta la fabbrica. Giusto. Pensa che calore sviluppa. È un po' come un cervello sempre sotto l'influsso della febbre. Cosa c'è, comandante Kappa? Mi si è accesa una lampadina nella testa. Ma dove? Non la vedo. Tenente Drago! Questa caldaia non è una caldaia. Questa caldaia è il cervello di Bichner. E dunque dobbiamo fare qualcosa. E cosa? Raffreddarlo. Ma no, Kappa, ma cosa stai facendo? Fermo con quell'acqua, sei perché pazzo! Voglio alleviare il dolore al povero Bichner. No. Pensa, ha poco più di 20 anni e ha sempre la febbre. Sì, però è proprio grazie alla febbre che ha scritto i suoi capolavori. Kappa, se gli raffreddi il cervello, si mette a scrivere come Faletti. C'è il rischio. Minchia, signor tenente. Anzi. Minchia, signor tenente Drago! Cosa succederà adesso? La scoperta del cervello di Büchner nella sala caldaie della fabbrica di polli cambierà la storia della letteratura tedesca? Non perdetevi il piacere di scoprirlo domani alla stessa ora su Radio 3 con il prossimo anatomico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude. Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it.